posto, quello che è a posto lui. Oh, yeah. Non ho durato molto. No. Oh. Zia. Andiamo alla base. Vabbè, dai. Già, è un casino. È un casino. Ti capisco. Io stavo guardando fotografie vecchie, filmati vecchi che avete fatto nel circolo e mi ha fatto un po' di tenerezza, dai, vedervi insieme. No, non ho capito, Giovanni, di chi fa? Capisci a me. Ci sei tu, quella tua persona. Ah, ma dove li hai visti? Nel mio profilo? Stavo guardando i filmati dei circoli, tutte queste cose qua. Ma tu sei ritornato, sì? Sì. Ah, vabbè, dai, già, ci vuole pazienza. Casino, come si sta comporto, lui, la schiena a pezzi, ciocci. Sì. Vabbè, cosa hai combinato oggi, già? Ma lavorando stai lui? Sì, campagna. Perché stavo dicendo che c'è, stanno cercando per fare portieratto. E dove? E in via dei Mille, quel coso di vigilanza che c'è, però senza pistola, capito? Portieratto solo. Cazzo, ma andiamo tutto quanto danno. Via dei Mille, e dove? Dopo rimane già? E rimane in angolo questa istituto di vigilanza. E devo portare anche Marco a farglielo fare domani. Ci vuole il curriculum? Adesso glielo porto anche io. Via dei Mille, ma all'inizio o alla fine? Vicino al rifornitore, la Vigilpol, no banditi, chi non paga un cazzo. Addirittura c'era un amico mio, cioè il figlio di un'amica mia, che è andato lì e si faceva 12 ore, 12 ore più un'ora e mezzo di viaggio, andate e ritorno, so 15 zuri di vasia, li rovina il esaurimento nervoso, si è avviato subito. Vabbè, bisogna vedere, basta mettere le cose in chiaro prima, quante ore fai e quanto ti danno, ma solo ci vai. 5 euro all'ora ti danno, capito, e devi travagliare 15 zuri che ti si mandano a Olbia, capito. No, se lo faccio qua, non ci vado a Olbia io, assolutamente. Io so che lo fanno qua negli ospedali, lì all'INAB, lo fanno al Conti, cose così. Supermercati lo stesso, fanno la guardia, controllano, capito? Poi se hanno bisogno a Olbia, no, non fa. Dove capita ti mandano, capito? Non è come ti dici tu. Meglio invece stare senza fare nulla, così. Io ho lavorato per 12 ore sempre e pareva che non finiva mai. Mi si pigliava pure la disperazione a me. Quindi lo so come funziona la situazione. L'ha fatto dello spino, non è a Sassari, quindi e devi essere autobonito pure. Buonanotte. Oh, yeah. Perché tu l'altro giorno stavi dicendo che li stavano cercando, per quello ho pensato di dirlo a Luca, ma lo sapevo che era così. Dov'è la Vigilpol? Dov'è tutto? In via dei Mille. No, via dei Mille è la Vigilpol. Vicino al coso, vicino al distributore che c'aveva Carmine, Brizzolato per essere esatti, lì è, vicino al bar Europa, il bar di Settimio, lì è. Puro. Allora, di macchine di gara. Già, sono lavori, cazzo, guarda, meglio la morte. Sto dicendo, il figlio di quell'amica mia, 15 ore si faceva, poveraccio, e se n'è andato, ma come è riuscito a entrare in un altro rubo? Sempre vigilante. Ma lui è armato, ce lo mandavano in punta di casino a lavorare. Purtroppo adesso la gente non paga, e perché vogliono guadagnarci solo loro, capito? Il fatto è quello. No, poi non è fisso come lavoro, come perdono l'appalto ti buttano fuori, e se non c'hai agganci in altri istituti di vigilanza per poter entrare a lavorare da un'altra parte, non fai un cavolo, non è un travaglio visto, perché sono appalti che prendono. L'executive era buono, io avevo un amico, prendeva anche a fine anno gli utili, si dividevano, quando avanzavano soldi si dividevano gli utili. Ehi, ma cos'è la Zuzio? Però i dipendenti erano in un tubo, mica ci lavora mio nipote, mi Paoletto, lì. E si va di 12 ore, buruetto. Perché se non fai 12 ore non prendi un tubo di stipendio, perché pagano poco a ora. Oh yeah. Perché non hanno uno stipendio mensile, scusa? Ma più lavori più guadagni, capito vai? Per avere uno stipendio decente devi lavorare 12 ore sempre. Mi puoi fatelo spiegare da Manuele Iarusaid come ti funziona. Non ti voglio di nulla io. Sai cos'è? Che qua non c'è contratto internazionale, mentre invece se tu vai a Roma, io ho un amico che praticamente lo fa a Oderzo, vicino a Treviso, e c'ha il contratto nazionale e mi vedi. Perché quello va con i furgoni blindati e c'ha l'indennità di rischio, però questi vigili così, guarda, pigliane boga ora. Fatelo di da Manuele, già lo sa lui, mica lui lavora a Milano, e lo sa. Manuele, forse tu lo conosci, Edoardo Usai, a Dodorodò. Ed ha cambiato diversi, ha fatto sempre andando e aumentando, adesso è nella Mondial Pool, adesso guida il furgone blindato. No, Edoardo finisce alle 2, me l'ha detto, c'è di comodo quello lì, che prima faceva, andava a mettere i bigliettini con un'altra, come si chiama, ditta, mettevano i bigliettini sotto, facevano 300 km di notte, da Odorso a Treviso, tutta quella zona lì faceva, e poi ha trovato questo con la Mondial Pool, lo pagano di più e lavora di meno, nel senso che lui alle 2 ha finito di lavorare e, se ne frega le scatole, c'è tutta la sera libera, magari dai. Vabbè che il lavoro non è stressante, non fai nulla, cosa fai? Cioè stai lì seduto a una scrivania con un cellulare in mano, io li ho visti molte volte anche, ti dicono quando ti vengono l'incontro, quando vieni ti dicono cosa deve fare, vada di lì, ecco, ti dicono, ti indicano dove devi andare, boh basta. Ti vuoi vedere cazzo quando ti voglio vedere fedi di 12 minuti da Zuru, mi diventa anche capannone, cazzo, ti si migliaia di ispirazioni, mica non sono terrose pure, e poi è pericoloso come lavoro, perché se no, secondo come capita ci rimetti le penne, non hai compreso. Già lo so. Allora, di là Oderzo, Treviso, non c'è nessuno che ci vada, hanno fatto la richiesta qua, lui è partito da qua, ma non sperava di stare, adesso si è sposato e tutto quanto lì. E praticamente questo suo amico di Sassari l'avevano messo in questa fabbrica dove c'era oro, dove fabbricavano, facevano gli anelli, tutte queste cose qua. Era una fabbrica d'oro. Praticamente lo mettevano da solo, di notte, e a freddo, ha detto che a volte c'era la neve, cosa si cagava dal freddo. E praticamente una volta dice che sono saltati dal tetto questi qui, li sono saltati addosso, uno l'ha disarmato, l'hanno picchiato, legato e ha nevurato un po' di oro, un po' di roba. E niente, l'hanno preso anche la pistola. E passi dei guai che tu non manco te li immagini. Poi non sei nessuno, non puoi domandare i documenti, non hai l'autorità di un poliziotto, capito là, non puoi fare un cazzo in pochi barauri. E se spari a qualcuno finisci in galera. Lo so che è così, già lo so. Loro ti possono al massimo fermare e poi chiamare come hanno fatto quando hanno aperto. guardia giurata l'ha bloccata e ha chiamato la polizia e l'hanno fatta arrestare, capito? Però non puoi fare altro, lo so, è così. Allora non puoi perquisire, non puoi aprire valigie, nulla, assolutamente, non lo puoi manco perquisire. Più bello è l'autorizzazione che hanno dato ai vigili di compiti di polizia in un paese, in continente. Questo ragazzo, questo corriere col furgone ha parcheggiato sui passaggi pedonali. Tu devi vedere che cosa gli hanno fatto: gli hanno aperto lo sportello, l'hanno tirato fuori, l'hanno picchiato, malmenato. I vigili urbani, tre vigili urbani, e il popolo si è messo contro i vigili urbani, gli ha chiamato la polizia, la polizia gliel'ha staccato e l'ha riaccompagnato al furgone a questo ragazzo, per dire, l'hanno tutto maltrattato, picchiato, fatto, capito? E quelli sono passibili di tortura, mia, lo sai, manco i poliziotti ti possono toccare, perché fa conto che ti possi animare o cosa, disinigli i torturenti, travaglio di vai secondo te. Ma allora praticamente questo ragazzo era un corriere, doveva scaricare un pacco, non c'era parcheggio, si è fermato dove c'era il passaggio pedonale, mettili la multa, ma non, gli hanno aperto lo sportello e l'hanno strappato fuori, tirato così, buttato fuori dal furgone e cominciato a picchiare, a fare e a strattonarlo, quello gridando, cazzo. Allora sono intervenuti passanti che c'erano, capito? Hanno chiamato la polizia, poi la polizia è intervenuta e gli hanno tolto da mano. Ti hanno grido. A quelli lì gli faranno il processo sicuramente per torture e cazzo, se l'hanno fatto qualche lesione lo bagano i babonomi. C'è tutto il filmato su internet, se magari ti capita per vederlo, c'è tutto il filmato. Non stanno facendo altro che mettere oggi è successo, oggi, non è che è successo tanti anni fa. Luca, ci sì. Boh, avanti Manuel. Eh sì, perché ti annoi magari, ti annoi, non sai cosa fare. Io avevo un amico che lo faceva in banca e di notte mi apriva, mi faceva entrare, non poteva farlo. E ci facevamo una chiacchierata, lui si cucinava anche la fettina dentro la banca, lo faceva, faceva, diciamo, era guardia giurata. Avanti la tazza. È un lavoro pesantissimo, sei sempre sotto stress, cazzo, si debui, ti rapineggia, un cazzo travaglio briguroso, no, io non l'avrei mai fatto qua, non per non avere coraggio, ma cazzo, poi io mi conosco, cazzo, è meglio che non ne abbia mai fatto di quel lavoro. Mi ha raccontato il Porto Torres che una notte gli è venuta in mente che ci aveva dimenticato roba in magazzino, lui ci aveva le guardie giurate e facevano i controlli, no? E invece hanno sentito il rumore, hanno visto la porta aperta, sono entrati con la pistola, mano in alto, dice si è cagato sotto. Ah no, dice lui era in casa sua, dice no tranquilli che sono io il proprietario, sto prendendo solo una cosa che mi avevo dimenticato in magazzino e basta, tutto lì. E ma lo sai che vi avessi chi randendi? Non è così, no, non è che tu puoi entrare così, cazzo, dove ci sono guardie armate, cazzo, chi si devono ripararmi? Facevano il giro, no, con i bigliettini, ci hanno visto la porta aperta e invece mio socio mi aveva raccontato che a Roma hanno visto questa serranda aperta appena, le scarpe fuori, e allora si sono nascosti, uno da una parte e uno dall'altra, come stavano uscendo i ladri con la refurtiva, gli hanno abbassato la serranda e le sono addrugato. Beh, così devi fare, e allora, solo che va, non lo puoi fare così, adesso, cazzo, è pericoloso fare anche il poliziotto, non ci credi, perché, cazzo, gli hanno tolto un bel di poteri, non pure va nulla, è un macello, se adesso, cazzo, gli hanno fatto, gli fai qualche lesione o qualche cosa, abbassando la serranda quando ti sei dicendo tu, cazzo, lo paghi babbone. No, l'hanno chiusa per non farlo uscire, l'hanno preso per i capelli e ce la regava dietro, e dopo li buccia le mani. Tortura! E se non stai attento ti denunciano per sequestro di persona se gli metti le manette, hai capito? Ti sto chiedendo, poniva nuda mia, va. Non è più come te prima, no? quindi quando vedi là dici andate tranquilli, non c'è problema, ma te lo possiamo mettere, basta di essere cazzati l'altra lì, le manette già le possono mettere pagando. Oh, l'ho visto anche di fronte a casa, una notte ho sentito carabinieri, polizia con le sirene sotto casa, mi sono alzato, cavolo, ho alzato la serranda e stavano seguendo questa macchina, poi questo qui è entrato, è passato della meridiana, è sceso giù e c'erano le scaline, non è potuto scendere, era ripizzicato, ci ha buttato un piede di porco in un cortile e loro però l'hanno visto perché stavano arrivando, quando lui era andato a buttarci il piede di porco stavano arrivando, quindi l'hanno visto, l'hanno bloccato, hanno fatto l'alcotest, insomma un po' di roba, gli hanno messo le manette e lui lasciatemi stare, mi stanno stringendo troppo, toglietemele che mi stringono, e gli ha detto carabiniere, toglimi le manette, carabiniere, sì, dici io sono un carabiniere ed sono fiero di esserlo e tu sei il ladro, così l'ha detto. Cazzo, se uno va a un avvocato buono ti fa di bassa brutti qualche dura, perché ci deve essere un buon motivo per mettergli le manette a un uomo. Capitola. Se no ti possono denunciare per sequestro di persona, oggi la legge è un po' ambigua e il giudice la interpreta invece di applicarla, capito? E quello è il difetto. E a Dalì, se ci ha buttato il piede di porco, probabilmente l'hanno vista prendo qualche denuncio o qualche cosa, ci aveva il piede di porco in macchina, dentro un cortile, poi il poliziotto è sceso giù e l'ha preso. Ecco che cosa ci aveva, questo è quello che ci aveva in mano. Ehi, vabbè, però a uno si è violento gli devi punire i manetti, se uno è tranquillo non vi puoi punire così i manetti con tanta leggerezza, capito? E deve città che magari piazza le mani, no? E via. E vabbè, comunque ci sono gli sceriffi anche tra i vigili urbani, perché anche qua a Sassari avevano picchiato un tipo, se ti ricordi, a calci, gli hanno messo il filmato. Questa qua gli ha fatto il filmato, però l'hanno denunciata perché ha fatto il filmato, capito? Sì, adesso hanno compiti di polizia e vigili urbani, come i poliziotti sono. Tu devi pensare, in America i poliziotti sono solo vigili urbani, i poliziotti davvero vanno la laurea e sono quelli dell'FBI, se no i poliziotti normali sono vigili urbani sia in Inghilterra che in America. Ma i vigili urbani devono pensare a dire traffico, non a fare queste cose, compiti di polizia, ma carità. Certi fanno gli sceriffi, capito? Sono un po' esaltati certi. E bisogna... cazzo, questo ragazzo l'hanno malmenato, l'hanno abituato lo sportello del furgone senza fare nulla, capito? Non è che era violento, che cosa, gli hanno aperto lo sportello del furgone e l'hanno ingabbato pure, ti rendi, usci, l'hanno inappato in terra, fa di bene, chi c'è, chi d'altro, alla fine si è messo in mezzo la gente, la popolazione. E allora, già lo credo, quello è abuso di potere proprio. Allora, cazzo. Già lo so già io, lo so, però andava meglio prima la situazione, adesso non li puoi manco toccare, non puoi fare niente, adesso è un lavoro da non fare, quello perché finisci nei guai secondo come ti comporti. Lo so, bisogna andarci coi piedi di piombo, prima usavano il manganello, io me lo ricordo, Piazza d'Italia, quando era roba che farà fare i fascisti in Piazza d'Italia, attaccare i comunisti, cazzo si azzuffavano quelli di Atomi Operaia, e ne vedevi manganelli fuori e tirando a campo, non vedi niente arrestata. Beh, io ho visto gente che prendeva le sedie dal bar di Rauli e le cudi andate alle poliziotti, ho visto storie, io frequentavo lì in piazza, quindi queste cose le vedevo, anche se non ero nella mischia. Ehi, Arusoku, chi si dirà Gelere, chi chiamavano la Gelere, quelli che erano preposti per l'ordine pubblico, i picchiatori. E attava dico con l'elmetto o qualcosa e cominciava lì, così, a colpi di... Una volta sono saliti anche in piazza con l'Egitto, quello mi ricordo c'era anche un amico mio che era poliziotto e l'ho visto mentre agivano, dalla Jeep chiudere i colpi di Mancarella la Iene. Ah no, te credo. Prima erano da temere, adesso c'è gente che ne approfitta, che mi sfida, che poliziotti, prima ridimiano i dubbi, adesso li sfidano. Io ho visto filmati di ragazzini che sfidano la polizia, capito? E non hanno rispetto più per niente, non li temono perché sanno benissimo che non li boniva nulla, compreso. Io macello, adesso sono i poliziotti che devono temere di fare quel lavoro lì. E quelli natali, e quelli in speciale notizia che sono andati per sgamare le borseggiatrici a Milano. Quando si arriva le borseggiatrici dicevano borseggiatrici a bordo, attenzione! E questa qua si è incazzata, gli ha detto questo è il mio lavoro, a te cosa ti frega se io rubo? Io rubare per lavoro! Rubare per lavoro, allora miglia, ti devi con tu roba di sussa, ma Gudre ne avevi accusato, che ti cazzo di immigrati, tutti i mari ti avevi cutti, non sono da citarli, vai vai, siamo gli schiavi di tutto il mondo, di tutta l'Europa, io me ne ero uscito, se lo stato che l'Italia me ne è uscito dall'Europa, e avevo fatto un ragazzo in me, la barbuda e piazzuto, avrei messo le navi militari lì, in acqua internazionale, lì. Cazzo, una mitragliata davanti, è una da ridurre, voi vedete fuggendi, un cazzo si erano avvicinati, se vi avvicinate vi affondiamo, l'avevo detto. La legge proprio devono fare così. E vedi che non si avvicina niente, quando cominci a imparare una mitragliata da ridere, una da nanzi, li puoi vedere girando di gururu gommone a piedi. Oh, i natali, stanno invadendo tutto, stanno invadendo. Oh, io, esci, che devo andare a prendere l'aereo al lavoro. Dai, ci sentiamo magari più tardi, natali. Stammi bene, ciao. Ciao ciao, vai a fare il dovere, vai. Fiorellino, ci sei? Cazzo, tutti i fuggiti ce ne so. Luca! Attento Fiorellino se sei in ascolto. Vai Fiorellino, caro caro. E io gli arusoggo. Cazzo. Quando si pone via la zona anch'io mi cazzo. Oh yeah. Si credono, è un lavoro che sei sempre sotto stress, gas, vai un bel duri, quando non potresti neanche farla per legge, tutte quelle ore, perché uno cazzo si deve anche riposare, deve fare 8 ore e buh, e smettere, e poi cazzo riprendere l'indomani, perché se no uno non si riposa. Cazzo dimmi tu, o se no quando mancava qualcuno, cazzo non avevo tempo manco di coccati che ti chiamavano a sostituire un collega. Te lo so io come funziona, i ci si credono tutto rose e fiori. E infatti in chi cazzo quando venne la neve veniva a vero, è freddo a vero, no come te inoghi, no. I noghi cazzo sembrano un paradiso terrestre, semmo. Però questi giovani non lo sanno cosa vuol dire a lavorare. Uno quando fa quel lavoro lì è perché è disperato, che deve portare i soldi a casa per forza, perché c'ha famiglia, se no non è un lavoro da fare. Non è questo, Manuè, non è quello. Cazzo, sei sempre sotto stress, io già lo so. Cazzo. Quando io facevo il corriere, che facevo 12 ore, Maria che non finiva mai la zurrada, mi si pigliava la disciplinazione ed ero sempre in giro, no, a se femmine un luogo, a rifugio, io sono un dimone manco, però sono le ore che ti pesano. E infatti questi ragazzini si credono che è un lavoro leggero, no? Cazzo ti voglio vedere prendere i 12 ore se li giro. Quando torno a casa da voi magari ti chiamano, cazzo, invece di riposarti devi tornare di figlia a sostituire qualche collega. Quando li tutti di così li voglio vedere. Non ti puoi dormire, a chi si passa il controllo se c'è a dormire, tu cazzo ti si cudini pura. Si credini sia un giugo, si credini. Cazzo. Se ti sto dicendo, il figlio di un'amica mia se n'è fuggito, a chi si riabilita la disciplinazione, si rimandavano sempre a Urbi, a Vissu, e faceva 15 ore al giorno. Io quando facevo 12 ore, dicendo cazzo, qualche volta mi si pigliava l'ispirazione a me, ma che pariva non finiva mai la zuzzata. 12 ore sempre andando, sempre a 80, ragazzi, non più di pulire, che sennò ti punirà la contraddizione alla rasura, ti vedo il dacchigrafo e ti segnavo che lo ci dai, orari, tutto canto. Sì. La batteria scarica. Beh, aspetta. Ecco, di cingo. Adesso innescando sto e ho cambiato apparecchio perché non ho il microfono normale adesso sotto mano e quello lì deve avere la batteria scarica e vabbè, l'importante è che mi intendi un ghiccio. E lei con questo bip? Attento che è quel Emanuele Magone. Sentito là cosa ha detto Emanuele, sentito là. E 5 Magone, attento, attento. Ma non è questo. No, stai uscendo, Natalino. Basso, basso il radio, sì. Sei sotto terra, tappa. Nulla. Cambia la batteria. Cingo, che pelosa che sei. Ah, tali. Tu non ci sei, non ci sei in radio. Natali, ci sei fuggito dalla radio. Natalino Franco, hola, e adesso uscendo sto, ah, e questo microfono è un po' particolare, capito? Ai caro, brutto tu sei, l'anima e core, ciao Tore, Ellu Tore, Natalino, ma Franco via, che tu no, è Franco. Ma Franco, e allora carino? Domanda a Piro, io non ne so cura era. Ha detto, era già mente sempre a Ginco. E così è. Andate, a me mi farò due tu. Non era Franco, che c'aveva l'eco con l'elicottero. Hola. L'eco con l'elicottero. Che non mi piace, questa bomba è butta. Non l'hai mai inteso tu l'eco con le l'elicottero che fa come le palle dell'elicottero. Ehi, questo deve essere uno che ha un baraccocco da camionista. Ah, così è. Andemmo. Zavirumi. Beh, signori, io vi ascolto che mi devo apprestare a mangiare. Ci sentiamo dopo, dai, al limite. Andare, ci sentiamo dopo, la Natalia. Devo guardare se c'è Gian Maria. E vabbè, là. Ci vediamo di là. Ok, Natalia. Cinco, ancora ci sei. Via. Ci sentiamo lì.